Fuori di noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto. Cari amici radioascoltatori, bentornati sulle frequenze di Blu Radio Veneto per un'ennesima puntata di Fuori di Noi. I microfoni purtroppo sono solo soletto e quindi ai microfoni, diciamo, vi accompagnerò con la mia voce senza la presenza e la voce, i contributi di Anna Zampieri, mia collega, proprio perché in questo periodo è un po' indisposta, quindi la salutiamo. Purtroppo le malattie, l'influenza colpisce ancora e ha colpito anche la nostra compagna di viaggio. Trasmissione appunto Fuori di Noi dedicata al mondo degli oratori, al mondo giovanile. Noi ogni settimana cerchiamo di intervistare, di incontrare realtà oratoriali o progetti legati al mondo giovanile. Andiamo in onda ogni sabato alle ore 14 e domenica alle 12.30. Se volete mandarci un'email fuori di noi @libero.it o un messaggio al cellulare mandandoci appunto una richiesta, una domanda o magari raccontando un bel progetto che state portando avanti nel vostro circolo oratorio noi, potete mandare un sms al 320 614 6964. È una settimana, è un periodo importante anche per quanto riguarda l'associazione territoriale Noi Treviso, che conclude con sabato 17 marzo alle ore 21 e domenica 18 marzo alle ore 17.30 la grande rassegna teatrale amatoriale. Ricordiamo appunto che l'ultimo appuntamento è domenica 18 marzo alle 17.30, compagnia teatrale Il Cilindro, Nessun va al monte di Gallina. È un'occasione questa per passare in compagnia un'oretta e mezza all'interno appunto di una proposta oratoriale che ha come, diciamo, punto principale, come tema principale l'esperienza teatrale. Una rassegna che, ricordiamo, è iniziata il 21 gennaio scorso e si conclude appunto dopo circa 12 appuntamenti proprio domenica 18 marzo a Scorzè, Teatro Helios Aldò, in collaborazione con l'amministrazione comunale di Scorzè, con la compagnia teatrale Il Cilindro di Trebaseleghe, Nessun va al monte. E poi c'è un'altra iniziativa che ci arriva dal circolo oratorio Noi di Conscio di Casale sul Sile, perché sabato 17 marzo alla sera alle ore 20 c'è un torneo di calcetto baliglia che si chiama Quarto Remeneo for Africa, il cui ricavato appunto di questa iniziativa va per la missione Sai Seva, cioè per aiutare una scuola keniana che ha sede a Nairobi. Quindi iniziativa legate al mondo giovanile, ma soprattutto legate al mondo oratoriale di Noi Associazione. Noi ogni settimana cosa cerchiamo di fare? Cerchiamo di incontrare realtà sparse in tutto il Veneto. Questa radio, appunto, Blu Radio Veneto, si sente in tutto il Veneto e come slogan ha scelto proprio il Veneto come non l'hai mai sentito, e noi cerchiamo di far sentire, far ascoltare delle voci che magari appunto facciamo difficoltà a sentire, cioè raccontando esperienze, attività, progetti dalla viva voce dei volontari che animano quotidianamente, settimanalmente i nostri meravigliosi circoli oratori o padronati sparsi a Venezia, Treviso, Padova, Vicenza, Trieste. Ogni settimana un ospite speciale e ce l'avremo anche questa settimana. Però abbiamo anche instaurato da qualche periodo, anche l'anno scorso, ed è ripresa questa collaborazione da qualche settimana, con l'ACR diocesana di Treviso. Quindi anche per questa puntata avremo il contributo dei ragazzi dell'ACR di Spinea, è la puntata dedicata agli amici di Spinea che hanno scelto anche i brani musicali. Ringraziamo quindi anche la regia di Edi Laici che ci accompagna in ogni puntata di Fuori di Noi, e quindi mandiamo il primo brano, quindi chiudiamo questo, diciamo, cappello introduttivo con il primo brano scelto proprio dagli amici, dai ragazzi della CR di Spinea, che hanno scelto una canzone che sentiamo tantissimo, Michel Teló con Ai Se Tu Pego. Se va! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, tema. Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar: nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Benissimo, abbiamo iniziato questa puntata in maniera frizzante e gioiosa, appunto con questa canzone che sentiamo praticamente quasi ogni giorno e che è un po' la colonna sonora di questo periodo. E appunto dicevo prima, appunto, che abbiamo ricordato che siamo appunto una trasmissione dedicata al mondo degli oratori, e questa settimana ovviamente andiamo idealmente dentro un oratorio attraverso il contributo, l'intervista con uno dei volontari di un oratorio presente nella diocesi di Vicenza. Abbiamo sentito qualche settimana fa il presidente di Noi Vicenza, Don Matteo Dordanello, e adesso noi sentiamo una presenza, una esperienza oratoriale proprio facente parte Noi Vicenza. Vediamo se ce l'abbiamo in linea. Cinzia, ci sei? Sì, ci sono. Ciao Cinzia. Ciao. Grazie di aver appunto dato la tua disponibilità per partecipare a questa puntata di Fuori di Noi. Grazie, allora, a voi. Cinzia, raccontaci un po' innanzitutto il tuo oratorio, come si chiama, tu che ruolo hai all'interno di questa esperienza, di questa realtà vicentina? Allora, il mio oratorio si chiama Circolo Santa Maria Maddalena di Longare, intitolato alla patrona di Longare, e io sono il presidente. Ah, bene, quindi tu, diciamo, dovresti fare sintesi, diciamo, di tutte le idee proposte che in qualche maniera cerchi di ascoltare e di condividere all'interno della parrocchia, all'interno appunto di un esatto. consiglio direttivo, che è un po' l'organo, diciamo, un po' principale che ha il nostro oratorio, perché tanti magari pensano che siano soltanto appunto un gruppo di volontari che non hanno, invece c'è una struttura, diciamo, sì. dietro il circolo Noi, uno statuto, un regolamento, ci sono addirittura le elezioni, i sì. soci eleggono dei rappresentanti che poi vanno a gestire sia dal punto di vista, diciamo, delle attività, sia dal punto di vista anche economico, se avete bar, se avete delle piccole attività che possono produrre un risultato economico, proprio una realtà come quella dell'oratorio. E allora ti chiedo, da chi è composto il tuo direttivo? Giovani, sì. adulti, partecipanti o facenti parte anche di altri gruppi parrocchiali? Come l'avete composto e diciamo, come lavora, secondo te, tu che sei anche un po' il presidente, il vertice? Diciamo. Allora, il nostro direttivo è composto da persone di età che varia dai 27 anni ai 58 anni. Sono persone già impegnate a vario livello, chi è animatore di Azione Cattolica, chi è componente della scuola materna parrocchiale, sì. chi si occupa della sagra nella comunità e chi è impegnato nello sport. Sono stati scelti appunto perché nelle varie realtà della nostra parrocchia sono persone che si danno da fare, insomma, e che apportano un loro contributo concreto. Quindi, come una famiglia avete, e come un oratorio, noi differenziamoci anche da altri tipi o altri ricordi oratoriali, noi come oratorio presentiamo un progetto che ha come destinatari non soltanto i ragazzi, certo i ragazzi sono privilegiati, ma noi vorremmo che tutte le generazioni, quindi bambini, ragazzi, sì. adulti, anziani, trovassero all'interno di questo ambiente un'occasione per scambiarsi qualche parola, per condividere un po' di tempo libero e, perché no, anche realizzare un bel progetto che riguarda non soltanto loro, magari, ma tutta la comunità, tutta la diciamo, comunità. Parrocchiale. E, Cinzia, se io vengo a Santa Maria Maddalena durante l'anno, ci sono sì. determinati appuntamenti, determinate, diciamo, iniziative che voi fate e che, diciamo, riscuotono un buon successo, che state portando avanti da tempo? Sì, sì, allora, da noi abbiamo, a parte un bar, che funziona tutte le sere perché per opera di volontari, ma poi abbiamo anche delle iniziative concrete, c'è la rassegna teatrale, poi ci sono i vari tornei d'estate di pallavolo, calcetto, e c'è il Grest che funziona molto bene, e delle serate culturali. Serate culturali che diciamo... Tipo presentazione di libri, musica giovane, e adesso stiamo iniziando con l'esperienza del karaoke. Ho capito, ma all'interno del direttivo quindi avete delegato un po' a seguire chi questo sì. progetto, chi la sagra, chi le attività sportive, immagino. Esatto, vero? Abbiamo nel direttivo c'è un rappresentante per ogni iniziativa. Ecco Cinzia, la tua esperienza diciamo come presidente o come diciamo anche volontaria all'interno dell'oratorio di Santa Maria Maddalena, cioè hai fatto una riflessione nel senso pensando diciamo a che valore aggiunto può portare oggi un oratorio all'interno di una comunità parrocchiale? Penso oggi che sia molto importante perché i giovani hanno bisogno di luoghi secondo me di aggregazione. Al di fuori da noi ci sono centri commerciali che funzionano benissimo e che attirano molto i giovani purtroppo e le società sportive di solito apprezzano chi è bravo, no? E gli altri sono un po' messi in disparte. Da noi invece accettiamo tutto, abbiamo anche i campi disponibili tutta la giornata aperti, al pomeriggio ci sono un sacco di ragazzi che frequentano perché appunto si sentono liberi e non condizionati, sono tranquilli in un certo senso e ricercano appunto questi luoghi di aggregazione. Quindi accoglienza, porte aperte, ma credo anche che ci siano all'interno del vostro, della vostra organizzazione anche delle regole che accompagnano, esatto. diciamo, e formano anche a livello e anche in una dimensione educativa tutte le persone che fruiscono dei vostri ambienti. Sì, la parola sì. educazione, per esempio, all'interno dell'oratorio, come è vista? Cioè oratorio ed educazione, queste due parole, educazione è proprio è un tema sì. che si sta, diciamo, su cui si sta molto lavorando, penso, in tutti diciamo, gli strati della nostra società proprio in questo periodo dove ci si dice appunto che c'è un'emergenza educativa. Educativa sì. Voi come riuscite diciamo a trasmettere anche alcune regole, alcune come posso dire, alcuni stili no, all'interno dell'oratorio sì. attraverso comportamenti, attraverso la presenza costante di qualcuno, attraverso che cosa? Sì, noi abbiamo dei volontari e secondo me a volte le parole non servono, ma lo stile di vita proprio del volontario e dell'animatore che affianca i ragazzi è importante. L'esempio stesso che dà l'animatore che magari ha 5-6 anni più del ragazzo che frequenta è importante per loro e che sia una figura quasi evangelica perché cerchiamo appunto di dare questo stile perché siamo in parrocchia. Esattamente, quindi l'oratorio non nasce appunto a caso solo per passare del tempo libero ma passarlo anche appunto cercando di diffondere e un po' anche fare una piccola riflessione ovviamente con modalità e tecniche diverse sulla figura di Gesù Cristo che ovviamente motiva penso tutti i volontari di un oratorio diciamo all'interno esatto. della parrocchia. Ti chiedo una cosa, come comunicate? Perché uno dei problemi che abbiamo sentito anche nelle passate diciamo sì. puntate, nei mesi passati da quando facciamo fuori di noi questa trasmissione è il fatto che si fanno tante belle attività, tante belle iniziative ma purtroppo per un motivo o per un altro si fa difficoltà a trovare una bella risposta, anche una bella presenza. Quindi forse c'è un problema diciamo che tanti oratori hanno nella comunicazione delle proprie attività ai soci, quindi diciamo a tutta la parrocchia. Voi quali strumenti diciamo usate per diffondere o per far conoscere qualche bella iniziativa, la presentazione di un libro, così come non so un torneo sportivo, il passaparola, i messaggi, un sito internet, un giornalino, come? Allora noi abbiamo a parte i soliti messaggi con pubblicitari di cartelloni, di deplia, ma abbiamo da poco installato anche una rete wifi nel nostro bar dove abbiamo schedato in un certo senso le mail dei soci. Ah, ho capito. Da lì partiamo sia con la comunicazione tramite posta elettronica sia anche con lo Facebook dove ci siamo iscritti come noi e abbiamo raccolto le amicizie in un certo senso e da lì i nostri eventi li pubblichiamo, li mandiamo oltre che a livello cartaceo, così foglietti, soliti manifesti, anche in questo modo. Abbiamo visto che i giovani sono attratti da questo e partecipano e ci danno anche risposta nelle nostre domande che facciamo e a volte ci danno anche dei consigli. Bene Cinzia, questo è il presente del vostro oratorio e nel 2012, cioè quest'anno, si festeggiano i 10 anni della fondazione, della creazione del NOI, che è sì. un'evoluzione dell'ex ANSPI diciamo, no? Sì. Ti chiedo una cosa, voi come realtà vicentina sì. avete qualche progetto, state ragionando su qualche nuova iniziativa o investendo diciamo risorse economiche umane su qualcosa di nuovo all'interno del vostro oratorio? Avete diciamo qualche desiderio da realizzare? Beh, noi a parte che abbiamo un territoriale che funziona benissimo a Vicenza e che ci dà un supporto enorme a livello sia di formazione che di aiuto fiscale e anche di valorizzazione dei circoli. Certo. La formazione, purtroppo lo sai anche tu, che nei circoli a volte è fatica portarla, perché quando sei lì tutti operano, però fermarsi un attimo fa fatica, sarebbe importante invece che molti riuscissero a farlo. Ecco, una cosa che secondo me sarebbe importante è il coinvolgimento dei parroci, perché i parroci a volte non sentono molto la realtà dell'oratorio e a volte forse, non conoscendo bene, non sono partecipi. Questo forse è una cosa che sarebbe più da valorizzare. Però dopo, per resto, come aiuto noi, adesso ci sono appunto 16 anni, so che stanno partendo con delle varie iniziative dove verremo coinvolti e che sicuramente parteciperemo. Sicuramente quello del binomio tra parrocchia e oratorio è fondamentale, esatto, per ogni realtà, cioè sinergia oggi vuol dire successo. Se c'è invece appunto qualche piccola incomprensione o non c'è, diciamo, una collaborazione eccezionale, questo poi ne risente, diciamo, anche tante volte le fatiche vengono investite ma poi non hanno successo proprio perché c'è questo piccolo scollamento, sì, diciamo, e questo, infatti, è sicuramente uno dei problemi che avevamo già sentito anche in altri territoriali, quindi bisogna sicuramente investire e noi associazione appunto quest'anno mi pare abbia un progetto simile, nel senso di informazione di nuovo magari anche per i parroci che magari si arrivano in una parrocchia nuova, non sanno, sì, cos'è un oratorio, noi non credono che non sia tra virgolette affare loro e quindi danno in mano, diciamo, soltanto ai laici, però poi non c'è questa collaborazione invece che è essenziale, quindi so che l'associazione a livello nazionale investirà anche da questo punto di vista. Cinzia, se dovessi descrivere il tuo oratorio o l'oratorio in generale con un oggetto, quale sceglieresti? Ma guarda, hai pensato? A mente fredda, sì, penserei a una scatola con sorprese, a una scatola piena di sorprese, perché con i bambini, con i ragazzi, con i giovani è tutta una sorpresa sempre e loro sono un movimento continuo. Hai presente quelle scatole dove metti, sì, dentro la mano e non sai cosa ti ritrovi, ecco. Certo, quelle scatole che apri viene fuori il pupazzetto, sì, e sorprende tutti quanti. Sì, sì, ti, sì, chiedo una cosa, ultima domanda, Cinzia. Il vostro oratorio per nella realizzazione, nelle attività, nella vita, diciamo, ordinaria, e quindi, diciamo, durante l'anno, ha instaurato, per esempio, delle collaborazioni, delle amicizie con enti, realtà distanti dalla parrocchia, quindi non legate, diciamo, ad un cammino, diciamo, pastorale e quindi evangelico. Non, sì, so, voi collaborate con il comune, collaborate, sì, con realtà presenti nel territorio, sportive, eccetera. Quali sono le vostre principali collaborazioni? Allora, le nostre principali collaborazioni, a parte i gruppi giovanili e associazioni all'interno della parrocchia, ma sono anche con la Proloco, dove abbiamo fatto delle iniziative insieme, abbiamo presentato specialmente la Shoah nel periodo di gennaio, abbiamo fatto assieme, e anche la partecipazione delle famiglie tramite la scuola dell'infanzia, perché per noi è importante che le famiglie, che con i bambini si avvicinino all'oratorio e capiscano appunto quanto per i bambini sia salutare e frequentare questo ambiente. Benissimo. Cinzia, allora ti ringraziamo tanto e ti auguriamo appunto buon lavoro, buona vita nel tuo oratorio, ricordiamolo, di Santa Maria Maddalena in Longaria, Vicenza, sì, e auguriamo anche a tutto il direttivo e a tutti i tuoi soci appunto un gran bell'anno, appunto anche perché è un anno di compleanno, 10 anni di noi, e lo festeggerete anche voi. Grazie ancora, voi. Cinzia. Grazie, ciao, mille. Ciao, ciao, ciao, grazie. Ciao. E i ragazzi appunto di Spinea non lo sapevano, ma dedicano appunto questa canzone alla realtà vicentina del Noi, appunto ricordiamo, abbiamo appena sentito Cinzia Veronese di Santa Maria Maddalena in Longare, e dedicano una grandissima canzone, quella di Giovanotti, Lorenzo Giovanotti, Il più grande spettacolo dopo il weekend. Senza saper suonare, volevo dirtelo, adesso stai a sentire, non ti confondere, prima di andartene, devi sapere che il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, io e te, altro che il Luna Park, altro che il cinema, altro che internet, altro che l'opera, altro che il Vaticano, altro che Superman, altro che chiacchiere. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi. Io e te che ci abbracciamo forte, io e te che ci sbattiamo forte, io e te che andiamo contro vento, io e te che stiamo in movimento, io e te che abbiamo fatto un sogno, che volavamo insieme, che abbiamo fatto tutto e tutto c'è da fare, che siamo ancora in piedi in mezzo a questa strada, io e te, Altro che musica, altro che il Colosseo, altro che America, altro che l'ecstasy, altro che nevica, altro che Rolling Stone, altro che il football, football. Altro che Lady Gaga, altro che oceani, altro che argento e oro, altro che il sabato, altro che le astronavi, altro che la TV, altro che chiacchiere. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi. Io e te. E se siete stati attenti, ho detto il più grande spettacolo dopo il Weekend, ho lanciato così la canzone. Mi sono confuso, ho sbagliato? Beh, non tanto, perché questa canzone, voi lo sapete, aveva un titolo talmente eccezionale che tanti oratori l'hanno utilizzata per un corso di formazione e si chiamava proprio il più grande spettacolo dopo il Weekend. Invece, appunto, ricordiamo che era dopo il Big Bang, quella canzone di Jovanotti. Ma la cosa importante qual era? Che ci diceva che il più grande spettacolo siamo sempre noi e in oratorio noi siamo convinti. Perché in oratorio? In oratorio si vola alto! Ecco allora che passiamo, dopo aver sentito le canzoni che ci hanno proposto, ai contributi della CR di Spinea. Ciao a tutti, noi siamo i ragazzi della CR di Spinea. Noi siamo Letizia, Sara, Aurora, Gaia, Marta. Nome del paese? Spinea. Nome della parrocchia? Santa Maria Bertilla. Comune? Spinea. Numero abitanti? 26.000. Numero delle famiglie? Nelle due parrocchie di Santa Bertilla e Crea vivono circa 5.300 famiglie. Nome del parroco? Don Marcello Miele. Età del parroco? 55 anni. Tre gruppi in parrocchia? Azione Cattolica, Nuovo Gruppo Giovani Adulti, Corpo, Coro Suoli d'Aquila. ACR quando? Domenica. ACR a che ora? Inizia con Santa Messa dalle ore 10 e attività in oratorio dalle 11 alle 12. ACR quanti siamo? 45, tra elementari e medie. Chi sono i nostri educatori? Enrico, Luana, Gloria, Beatrice e Anna. Nell'ultimo incontro abbiamo parlato di Papa Paolo VI durante il pellegrinaggio vicariale della pace svoltosi a Brescia. ACR a me piace perché ci fa conoscere meglio la vita di Gesù attraverso giochi divertenti. Attività principali durante l'anno? Festa del Ciao, Festa della Pace, Convegni diocesano e vicariale, Pellegrinaggio della Pace vicariale, attività sul Vangelo, conoscenza di alcune figure di santi. Numero degli aderenti alla C? 95. E dopo la carta d'identità c'è il racconto di una bella esperienza vissuta in ACR. Abbiamo scelto, tutti insieme, di parlare di un'attività che ci ha molto colpito. Fabiana, la nostra cooperatrice pastorale, ci ha raccontato la storia di Madre Teresa di Calcutta e della sua chiamata. Molte cose ci hanno colpito della sua storia, per esempio il fatto che una donna semplice e minuta possa aver compiute grandi opere, oppure come ci siano persone che, per avvicinarsi a Dio, decidono di aiutare persone bisognose. Madre Teresa, infatti, non aveva paura di avvicinarsi alle persone malate di lebbra, anzi, ha ricevuto la chiamata proprio durante un viaggio in treno, quando quelle persone che a causa della malattia erano emarginate e dimenticate. Un'altra cosa che ci ha colpito della sua storia è un episodio particolare. Il Papa, durante un viaggio in India, le ha lasciato in dono la macchina bianca, che a lui stesso avevano regalato. All'inizio, lei e le altre suore che lo aiutavano avevano deciso di usarla per spostarsi a raccogliere i bambini lasciati per strada e nella spazzatura. Poi invece decisero di venderla e con i ricavati costruirono nuove strutture. Poi c'è stata presentata Roberta, un'amica di Fabiana, che ci ha raccontato la sua esperienza. Qualche anno prima aveva ricevuto una chiamata dal Signore e aveva deciso di andare in India ad aiutare le persone in una delle strutture di Madre Teresa. Arrivata lì, pensava di poter stare con i bambini e invece è stata messa a fare cose molto semplici, come lavare i panni e al massimo doveva aiutare delle signore anziane, ospiti di quelle strutture. Così abbiamo riflettuto su come si possa capire quando Dio ci sta chiamando e siamo arrivati alla conclusione che se quello che ci chiede da fare, nonostante i sacrifici, porta gioia nel nostro cuore, allora è proprio una chiamata del Signore. In conclusione, possiamo dire che questa attività ci ha avvicinati a Gesù per vari motivi. Primo, perché Madre Teresa voleva somigliare allo stesso Gesù che si avvicinava alle persone malate. Secondo, Madre Teresa aveva intuito di poter incontrare Gesù proprio negli ultimi, nei suoi casi lebbrosi. Allo stesso modo, noi lo possiamo incontrare in quelle persone con le quali non parliamo, che però ci circondano, quelle che non ci stanno simpatiche, insomma, negli ultimi vicino a noi. Infine, abbiamo scritto su un palloncino la frase «Ti voglio bene». Una volta una persona che Madre Teresa aveva aiutato le aveva chiesto il perché delle sue azioni e lei aveva semplicemente risposto «perché ti voglio bene». Allo stesso modo noi abbiamo consegnato il palloncino a qualcun altro in segno di affetto. Un super saluto dai ragazzi della CR di Spinea. Ciao! E noi da Blu Radio Veneto, da fuori di noi, contraccambiamo questi grandi saluti. Come concludere meglio, se non appunto con la voce di questi ragazzi della CR di Spinea? Grazie ragazzi, grazie appunto anche all'oratorio di Vicenza che è stato protagonista di Fuori di Noi. Ci risentiamo e ci riascoltiamo sempre su Blu Radio Veneto la prossima settimana. Ciao a tutti! Fuori di noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto.